lungo la strada che porta a te ci sono valli le più profonde e boschi impervi d'oltrepassare, come la notte da attraversare e la mattina da rivedere, le convinzioni da sostenere, quello in cui credo da confermare e le tue labbra da morsicare. Lungo la strada che porta a te ci sono occhi da carezzare e neve e ghiaccio da riscaldare, terra sottile da calpestare, fiumi di sogni da rivedere, prati di stelle da analizzare, il mondo intero da salvare e le tue mani da coccolare. Tempo che passa senza avvisare, vita che entri senza bussare, amore che sbocci senza ferire, donna che parti senza tornare, e l'utopia che si fa ragione, la metafisica percezione, corro nel vento senza parole, rimane solo un raggio di sole per te, per te, solo per te. Lungo la strada che porta a te ci sono pietre le più scolpite, le strade curve, discese infinite e raramente le risalite. E verso sera malinconia e le certezze da buttare via, quello in cui spero da rafforzare e la tua schiena da punzecchiare. Lungo la strada che porta a te ci sono cappelli da vezzeggiare e sabbia e polvere da raffreddare, erba sui prati da rinverdire, rimpianti e sogni da rincontrare, galassie e soli per farsi accecare e il mondo intero da salvare ed il tuo corpo da rivelare. Che passi senza avvisare, vita che entri senza bussare, amore che sbocci senza ferire, donna che parti per poi tornare, e l'utopia che si fa ragione, la metafisica percezione, corro nel vento senza parole, rimane solo un raggio di sole per te, per te, solo per te. Tempo che passi senza avvisare, vita che entri senza bussare, amore che sbocci senza ferire, donna che parti per poi tornare, e l'utopia che si fa ragione, la metafisica percezione, corro nel vento senza parole, rimane solo un raggio di sole per te, per te, solo per te, solo per te.